Cartellone di Elisabetta Fiorito. Diciamo che questo sabato apriamo alla grande, sì, perché andiamo al Teatro Eliseo di Roma, dove questo weekend c'è addirittura Nicola Piovani con Epta, suite strumentale in 7 movimenti per 7 esecutori. E vabbè, un pochino sono emozionata a avere un premio Oscar a Cartellone. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, uno spettacolo un po' particolare perché si tratta di musica, ma si tratta anche di parola. Ci vuole spiegare com'è strutturato? È strutturata così: ci sono, siamo 7 musicisti, che sono 7 strumenti, divisi in 7 movimenti. Ogni movimento ha uno strumento protagonista e ogni movimento ha un titolo, un argomento legato al numero 7. Per esempio la danza dei 7 veli, o il settimo sigillo, o i 7 a Tebe. E ogni movimento viene introdotto da una voce registrata di un attore, come anche queste 7 voci, come fossero 7 strumenti diversi. Sono la voce del professor Di Fredi, di Omero Antonutti, di Ascanio Celestini, di Mariano Rigillo, di Vincenzo Cerami e di Gigi Proietti. E in più, che non è scritto lì perché così l'abbiamo trovato dopo, le voci di Cigoli e Persa, che erano i doppiatori del settimo sigillo nella versione italiana. Ecco, si ascolta la voce che dice i versi, che introducono brevemente o per un minuto e mezzo, e poi c'è il brano. Un viaggio dentro al numero 7. Perché 7? Perché 7 sono le note, che poi non sono mai 7, però sono di più, però nella tradizione popolare sono 7. Ma le note sono 7 perché le hanno volute far diventare 7. C'è una tendenza a portare tutto al 7, anche quando si divide il tempo. Perché la settimana è in 7 giorni? Vede com'è complicato da gestire la simmetria del 7, no? Perché la settimana 7 giorni? Quando deve prendere le pillole un giorno sì, un giorno no, poi fanno saltare la domenica per ritrovare il doppio passo. E anche i colori dell'iride, che sarebbero di più, si è stabilito che erano 7. Le note, per farle diventare 7, hanno inventato quei mancanza di tastinieri, no? Per 2 volte, per cui la tastiera è qualcosa di asimmetrico, di irrazionale, e il 7 porta dentro questo, proprio l'idea della asimmetria, del non concluso. Infatti Tebe, che era una città che doveva difendersi, ce la tramandala come una città con 7 porte, che sono irrazionali da costruirsi, da viversi e da difendersi. C'è questa tradizione però anche sempre romanesca nei suoi spettacoli, perché a un certo punto c'è Gigi Proietti che recita, vabbè, una poesia di Carducci, però 7 paia di scarpe. Un po' si passa da delle cose molto molto alte a delle cose invece di vita quotidiana. Beh, le 7 paia di scarpe sono il finale della poesia di Carducci, Il davanti a San Guido, e Proietti fornisce la sua splendida voce a questo spettacolo, ma la sua voce è classica. Proietti è un attore che dice i versi classici in maniera impareggiabile, inarrivabile. Quella filastrocca delle 7 paia di scarpe era qualcosa che, quando imparavo la poesia a memoria, brutta, che non mi piaceva. Però quando arrivava questo Carducci, finale, non è che fosse questo grande poeta. No, però quando arrivava il finale, in cui Carducci apre le virgolette, ci dice la filastrocca popolare della nonna Lucia: 7 paia di scarpe ho consumato, di tutto ferro per te ritrovare, 7 verghe di ferro logorate per appoggiarmi nel fatale andare, 7 fiasche di lacrime ho colmato, 7 lunghi anni di lacrime amare, tu dormi alle mie grida disperate, il gallo canta e non ti vuoi svegliare. Secondo me sono dei versi bellissimi, e io chiudo, chiudiamo la Epta con proprio queste 7 paia di scarpe, come ricordo di una emozione che avevo alle scuole medie, quando al finale di questa poesia noiosa arrivavano questi versi. Per fortuna che arrivavano. Allora ascoltiamo un altro brano dello spettacolo. Beh, insomma, ci stiamo perdendo un po' con la sua musica. E volevo dire, i solisti sono dell'Orchestra Araceli, giusto? Sì, che è un'orchestra che ho fondato tanti anni fa, di persone che conosco individualmente. E suoniamo in diversi organici, in questo caso siamo sette. Con me suonano sei musicisti, uno più bravo dell'altro, che mi piacerebbe proprio citarli tutti a memoria: Ivan Gambini, Alessio Mancini, Luca Velotti, Francesca Taviani, Fabio Ceccarelli e Andrea Avena, e io suono il pianoforte. Poi suonano ognuno uno strumento: flauto, sassofono, fisarmonica, violoncello, contrabbasso e percussione e batteria. Sì, sì. Quindi ogni spicchio di questo set è caratterizzato da uno strumento musicale. Sì, sì, ogni movimento ha uno strumento protagonista che però dialoga e interagisce con gli altri. Sì, sì, sì, sì. Questo vale anche per il Come vi piace, che viene da un monologo in cui Shakespeare, con dei versi meravigliosi, descrive le sette età della vita, un pezzo che viene recitato magnificamente da Mariano Rigillo, o anche la storia della danza dei sette veli, che è un nostro archetipo che ci portiamo dentro dal Vangelo, dal racconto mitologico, fino alle versioni un po' squallide dei piccolo borghesi negli anni 50-60, se si usava un termine bruttissimo, lo spogliarello, ecco, la versione squallida. C'era quella versione hollywoodiana, no? Dove c'era la danza dei sette veli, mi sembra. Sì, sì, ma quello è bellissimo, è in Technicolor. È il film con Rita Hayworth che riporta questa storia, ma però insomma chi veramente va a fondo di questa storia qui, secondo me, è Oscar Wilde, in cui ci spiega che tutta questa storia dell'erotismo, della seduzione, è soltanto un modo, è soltanto un mezzo per avere potere, per infogliare Erode, il patrigno, e per avere la testa mozzata del profeta Giovanni. E il Salomè, dopo che ha ballato, bacia Giovanni gli si era rifiutato, ha detto no, non aveva ceduto alle sue bellezze. Era una bestemmia per una donna come Salomè che qualcuno rifiutasse le sue grazie, e quindi gli dice: io bacerò la tua bocca. Infatti danza, usa la danza, usa il sesso, usa l'erotismo come mezzo di potere, a quei tempi si usava, e chiede a Erode la testa mozzata di Giovanni, poi la bacia mentre sanguina. Vede che dietro la danza dei sette veli c'è un tipo di erotismo col quale io non vorrei avere mai nulla a che fare, immagino. Nemmeno noi, nemmeno noi, no, soprattutto un po' questa passione morte, no? Allora, ricordiamo. Non ha nulla di attraente questo fatto, no. Per me, no, nemmeno per noi, nemmeno per noi. L'uso dell'eros per avere potere, per uccidere, per soldi, per no, qualche cosa contro la quale lottiamo tutti i giorni. Ma forse tutto sommato doveva accettare il responso il fatto che magari Giovanni non era interessato all'argomento. Allora. Voglio dire, bisogna anche adattarsi alla realtà, non è che possiamo piacere a tutti. Se appunto, arriva un certo nemmeno punto, Salomè qualcuno piaceva a cui tutti. Non piacciamo, non è detto che gli dobbiamo per forza troncare la testa, no? Infatti, nemmeno Salomè piaceva a tutti, per cui posso fare un annuncio alle donne che ci ascoltano: non c'è problema se non piacciamo a tutti. Allora, Efta di Nicola Piovani, abbiamo sentito questo weekend al Teatro Eliseo di Roma, una suite strumentale in sette movimenti per sette esecutori, ovviamente pianoforte Nicola Piovani. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. Grazie. Cartellone. Prima che a me pareva si intitolasse Pioggia. Sì, Pioggia. Proprio così, Pioggia. Madonna della noce, la danza che aveva imbastito su nel bel mezzo dei marinari. Senza contare tutte le storie dei suoi amori che fino a un re, anzi più di un re, la Ricam in persona le aveva perso la testa dietro. Emiliano, quel porco, quello che tra re furtiva, ladri, la moto per lui e quell'altra che si era preso per quelle stramaledette corse, vedendolo nelle quali tante volte avevo goduto più che essergli a letto insieme. Ma guardate un po' se si può essere più scemi. E riconosciamo sicuramente un accento un po' meneghino, diremo, perché questa pièce teatrale che ha debuttato a Milano al Teatro Out Off, che sarà in scena fino al 23 maggio, parla proprio dei segreti di Milano, dei segreti di questa città incredibile, la Gilda del MacMahon di Giovanni Testori, una pièce scritta nel 1959 che parla proprio un pochino di una donna dalle fattezze provocanti, come la famosa diva americana Rita Hayworth quando faceva Gilda, che vive però a Milano nel Ponte della Ghisolfa e si innamora di Gino Bonfanti, un balordo che lei mantiene vendendo il proprio corpo. Insomma, un tratto neorealistico che viene interpretato da Elena Callegari, come abbiamo sentito, con forte accento milanese, regia di Lorenzo Loris. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno, ciao. Allora, abbiamo detto tutto? No, assolutamente no. È un po' un mito questa Gilda del MacMahon? Beh, è un personaggio di quella saga familiare che scrittori scrisse nel 59, sono una serie di racconti, come hai detto tu, che si sotto il titolo di I segreti di Milano raccontano di una Milano della periferia nord di Milano della fine degli anni 50. La Gilda appunto è stata scritta nel 59, racconta la storia di una prostituta milanese che lavorava in via MacMahon e cercava in una Milano che cercava di riprendersi a fatica dopo la guerra. Gilda è una persona schietta, un cuore grande come una casa, si innamora di Gino, un balordo, e per lui si spende con amore e devozione, al punto che quando Gino viene condannato per ricettazione di re furtiva, lei si prostituisce per farlo uscire dal carcere. Ma Gino non ricambia con lo stesso amore e la stessa devozione, perché i buoni costumi lo vogliono accanto a una donna estremamente convenzionale. Da qui la ribellione di Gilda, che decide di confessare alla moglie la loro storia d'amore. Ma in quel momento Gilda verrà a sapere che questa donna ha in grembo il figlio del suo amato, e durante questa scoperta cogliamo tutta la purezza di questo personaggio, che ha dentro di sé una maternità istintiva che si scontra invece con la maternità di fatto della rivale. Insomma, ci sembra un pochino un ambiente stile Rock e i suoi fratelli, no? Le sì, case di ringhiera si dice a Milano, sì. A Roma si dice le case col ballatoio, invece a Milano si dice la casa di ringhiera. Insomma, ci sono tutta una serie di cose rappresentano questa città. A questi racconti si ispirò Luchino Visconti nella messa in scena nel film di Rocco e i suoi fratelli, come hai detto tu, dove c'era Nadia, che era una prostituta e aveva poi una breve relazione con Simone, interpretato da Renato Salvatori. Ma ti interrompo, Loris, per sentire un altro brano dello spettacolo che tu hai, di cui hai curato la regia. Un'atmosfera quasi in bianco e nero, con le musiche di Matteo Pennese, che è anche coprotagonista dello spettacolo, giusto Loris? In scena, sì, Matteo suona la tromba e in realtà interpreta attraverso lo strumento tutti i personaggi maschili che Elena Callegari, che è l'attrice che interpreta Gilda, cita durante lo spettacolo. assistiamo a dei veri e propri dialoghi in cui Gilda racconta e Matteo con la tromba fa da contrappunto e le risponde. Insomma, un'atmosfera sicuramente particolare, e consigliamo a tutti i milanesi, ma anche chi è in visita a Milano, di andare a vedere la Gilda del MacMahon per riscoprire una parte di storia di questa magnifica città fino al 23 maggio al Teatro Out of di Milano. E adesso invece ci spostiamo a Napoli, perché al Teatro San Carlo c'è un nuovo allestimento che debutterà proprio il 12 maggio della Vedova Allegra. È scabroso le donne studiare, son dell'uomo la disperazione, dentro e fuori mistero e senso. Donne, donne, termine, che rubin dal visin tutto ciel, dallo sguardo più dolce del miel. Rosse, brune o bionde, che fa l'uomo sempre burlato da lor sarà. Donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne. E allora sentiamo Gennaro Cannavacciuolo, che è tornato qui a Cartellone, perché in questa Vedova Allegra abbiamo sentito un file storico con Aroldo Thieri e Arnoldo Foà, però in questa Vedova Allegra interpreti chi? Ciao Gennaro. Ciao, buongiorno a tutti. Interpreto il ruolo brillante, il Niegus. Il Niegus. Il segretario dell'ambasciata del Pontevedra, dove accade di tutto e di più. Allora, uno spettacolo che va in scena fino al 19 maggio al Teatro San Carlo di Napoli, però è una ripresa, insomma, mi sembra che c'è stato già anche addirittura un CD che avete fatto. Sì, no, è una ripresa che viene dal Carlo Felice di Genova, poi facciamo, perché è una coproduzione con il San Carlo, e poi a dicembre prossimo all'Arena di Verona, il Teatro Arena di Verona, sì. Quindi insomma l'operetta si avvicina all'opera? C'è sempre questa diatriba, no? Sì, no, ma si avvicina molto questa, anche perché è quasi un'opera, è un'opera meravigliosa, è ricca di sfumature, e poi devo dire che queste musiche di Lear eseguite da questa orchestra, dall'orchestra del San Carlo, è veramente emozionante, perché è una grande orchestra, finalmente ci troviamo di fronte ad una grande orchestra. Allora, ricordiamo un pochino la trama, ambientata a Parigi, c'è il tentativo, praticamente ti fa sposare la ricca vedova, Anna Glavari, al conte Danilo, la sua antica fiamma. Tu che cosa fai? Un po' il ruffiano, ti metti i calzini rossi? Ma io sono un po' come quello che si dice a Napoli, la capera, che sai fatti di tutto e cerca di mettere insieme gli inciuci, capito? E di risolvere al meglio la situazione disastrata economica del Pontevedra. Comunque un ruolo veramente brillante e divertente. Bene, e Anna Glavari, come in una grande favola, rimane vedova di questo vecchio banchiere di 20.000 miliardi, pensa un po'. Ma beata lei, eh? Beata lei. Siccome il Pontevedra sta proprio alla fine dei suoi giorni, che è uno stato, no? Cioè uno stato ovviamente immaginario, perché insomma il Pontevedra non ci risulti essere sulla cartina geografica. Immaginario, però molto collocabile a tanti stati moderni, ecco. Il Liechtenstein, oppure Monaco, oppure Gibilterra, questi qui. Oppure Grecia, insomma, ecco, in questo momento, no, io parlo proprio della situazione. Ah, della situazione economica. Sì, è molto similare, anche se non esiste sulla carta geografica. Niente, allora per salvare il Pontevedra cercano di fare sposare il più bella ragazza del Pontevedra alla ricca Anna Glavari, che comunque è una donna giovane, molto bella, perché lei sposa il banchiere vecchio, ma lui muore. E alla fine, dopo tanti equivoci e gag e colpi di scena, si arriva naturalmente alla grande finale. Allora noi consigliamo agli amici greci di trovare un'altra vedova allegra, magari Papandreou. Purtroppo se tutto questo accade in teatro, Gennaro, come noi sappiamo, per farci sognare, ma nella realtà è un po' più dura. Allora ricordiamo il nostro amico, oramai amico di cartellone, Gennaro Cannavacciuolo, nel ruolo di Niegus, nella vedova allegra al teatro. Per la regia di Federico Tiezzi, quanti attori e quante ore di spettacolo? Perché poi ci sono molte canzoni. Ma credo che no, sono due. No, è una vedova abbastanza stringata, sono due ore e mezzo. Insomma. Ci sono fra coro, artisti, tecnici, credo che saremo un ensemble di circa 200 persone. Allora, proprio un grande spettacolo, La Vedova Allegra con Gennaro Cannavacciuolo al Teatro San Carlo di Napoli, debutta il 12 maggio fino al 19, quindi bisogna prendere questa settimana per andarla a vedere. Grazie Gennaro. Grazie a voi. Cartellone. I'm heading my car straight for heaven. Hopes are free and I'm gonna use them. The wind is whistling, never hesitating. Go on, go on, go on, go on. E questa atmosfera ci porta nel quartiere cinese di New York, Chinatown, sì, proprio quello lì accanto al Greenwich Village, che però in questo momento è in scena al Teatro Nuovo di Napoli fino a domenica, e poi invece dall'11 al 16 maggio arriverà al Teatro India di Roma. Lo spettacolo si intitola Chinese Coffee, la regia è di Pierpaolo Sepe. Buongiorno Pierpaolo. Buongiorno a te. Viene subito da chiedersi, ma i cinesi sanno fare bene il caffè? Perché noi eravamo abituati con la macchinetta napoletana. Guarda, non oso neanche immaginare come facciano il caffè i cinesi. Noi preferiamo quello napoletano senza alcun dubbio. Però lo spettacolo parla di tutt'altro poi, no? Sì, sì, no, noi parliamo di cinesi in quanto comunità solidale che cerca in qualche modo di tutelarsi e di proteggersi, mentre invece le società occidentali non hanno questo privilegio. Allora, i personaggi sono due in scena, Harry e Jake. E amici, due amici che si alla resa dei conti, che in una notte piovosa affrontano il problema della loro amicizia e la relazione che adesso assume contorni nuovi e drammatici. Quindi di cinese c'è proprio poco e niente, ecco. Di cinese c'è pochissimo, invece c'è l'arte ai tempi del liberismo, c'è la condizione in cui versano gli artisti oggi, obbligati dal mercato a diventare qualunque cosa pur di essere vendibili e commerciabili, e quindi esseri alla ricerca di un esito e di una vittoria che purtroppo sa di sconfitta in maniera angosciante. Quindi è una storia tra due amici ambientata nel momento del proibizionismo americano? No, del liberismo mondiale, cioè oggi. Ah, è ambientata ai giorni nostri. Sì, nell'epoca in cui il monarca assoluto è il mercato e tutti quanti ci inchiniamo e cerchiamo di essere in qualche modo piacenti pur di essere vendibili. Cioè, è oggi, è il nostro tempo, è il momento in cui tutti noi siamo un po' spersonalizzati e siamo in cerca di un esito immediato, e le nostre esistenze sono in qualche modo spese e in funzione di una vittoria. Questo è il momento, raccontiamo questo, e anche un rapporto di amicizia rischia di essere rovinato da questa problematica. E allora sentiamo come questo dramma appare in scena. Though nothing, nothing will keep us together. It can be them forever and ever. Oh, we could be heroes just for one day. Ecco Pierpaolo, si può essere eroi per un giorno, come diceva David Bowie, oppure Come sentiamo anche nella rimodulazione che avete fatto della canzone, ci sono interruzioni, ci sono strappi, no? Noi siamo partiti da Heroes proprio perché un tempo pensavamo di essere eroi, pensavamo di poterlo diventare, pensavamo che l'arte potesse innalzarci e renderci migliori. E purtroppo di questi tempi non può accadere così facilmente. Purtroppo l'arte è diventato solo un commercio, è diventato un prodotto, e questo prodotto deve piacere a quanta più gente possibile. E questo, quindi Heroes ha un sapore abbastanza amaro. Anche se poi lo spettacolo in realtà ha una sua leggerezza, una sua comicità, il dialogo è estremamente fruibile e semplice. Però la problematica ha messo a mostrare, io ci tenevo a metterla in evidenza, e Heroes è il senso delle cose. Volevamo un tempo, credevamo di poter essere degli eroi, credevamo di poter essere delle persone fantastiche, e invece purtroppo siamo molto di meno. Purtroppo siamo molto di meno, allora lo scopriamo fino a domani, domenica, al Nuovo Teatro Nuovo di Napoli, oppure dall'11 al 16 maggio al Teatro India di Roma, Chinese Coffee. Abbiamo sentito di Ira Lewis, traduzione di Letizia Russo, con Max Malatesta, Paolo Sassanelli, regia di Pierpaolo Sepe. Ciao Pierpaolo. Ciao, grazie a voi. E adesso andiamo a Reggio Emilia, dove fino a domenica, c'è una sorta di incanto, uno sguardo che si può avere sul mondo, perché proprio così si intitola la mostra sulla fotografia europea. Ma che cos'è? È una sorta di rassegne, incontri, spettacoli, per un totale di 120 eventi fino al 13 giugno, quindi si apre questa settimana ma va avanti fino al 13 giugno, in tanti luoghi cittadini. Buongiorno Elio Grazioli, uno degli organizzatori di questo mega evento. Buongiorno a voi. Allora, come partite questo weekend per arrivare al 13 giugno, che cosa succede? Nelle giornate di questo weekend si succedono in continuazione in tutte le piazze di Reggio Emilia degli incontri di dibattito sul tema e sulla fotografia, e durante naturalmente l'apertura per tutta la giornata di tutte le esposizioni della manifestazione. Ci sono concerti alla sera, ci sono incontri veramente di ogni tipo, anche perché la manifestazione si apre a 360 gradi su questo tema e comprende anche una mostra che riguarda la scena musicale di Manchester, per cui ci sarà un tributo a quella scena, ci sono mostre dedicate al ballo, per cui ci sono danze, ci sono mostre dedicate veramente ad ogni disciplina. Credo che sia uno dei caratteri della manifestazione Fotografia Europea, cioè di mettere la fotografia al centro di una discussione il più possibile aperta a 360 gradi. Anche questo tema, il tema è proprio un'indicazione che parte dalla fotografia. Per noi l'incanto è uno sguardo incantato, che è quello della fotografia soprattutto oggi, però naturalmente può essere affrontato sotto molti punti di vista. Le mostre principali, vorrei ricordarne qualcuna. La manifestazione diciamo che si apre idealmente con un omaggio al fotografo Man Ray, il più grande fotografo, uno dei più grandi fotografi del XX secolo e il più grande dei fotografi surrealisti, perché i surrealisti sono stati i primi ad avere uno sguardo sulla realtà che la trasfigura, dentro la quale cerca non semplicemente come la realtà si presenta, ma anche simboli, metafore ed altro. E inoltre Man Ray riassume in sé un po' tutti i caratteri che gli altri autori della manifestazione poi sventagliano in ogni direzione. È stato un grande fotografo di moda, è stato un grande sperimentatore con il rayograph e con la solarizzazione, è stato veramente un autore così originale da essere riconoscibile in ogni suo tocco, E questo poi, dicevo, verrà sviluppato dagli altri fotografi. Allora ricordiamo, Incanto, lo sguardo sul mondo, si inaugura questo weekend a Reggio Emilia con 120 eventi tra conferenze, workshop, installazioni e spettacoli, ma le mostre proseguono fino a domenica 13 giugno. Grazie a Elio Grazioli. Grazie a voi. E adesso andiamo in Piemonte, sì, perché in viaggio con 100 festival alla regione, alla scoperta della regione Piemonte. Dottor Marco Chirotti, dirigente del settore spettacolo e della direzione cultura, turismo e sport della regione Piemonte, che cosa accade in questa regione durante questi giorni? Durante questi giorni, intanto buongiorno, durante questi giorni diciamo che il Piemonte scalda un po' i motori in vista dei grandi festival che partono dal mese di giugno e si articolano durante tutta l'estate. A maggio segnalerei comunque l'apertura di attività sicuramente interessanti di respiro internazionale distribuite sul territorio regionale da nord a sud. Possiamo andare dallo Stresa Festival, i concerti di primavera nella splendida cornice del Lago Maggiore. Ci sono artisti di fama internazionale come Galliano a Villa Pallavicino, Philip Glass e Goran Bregovic al Palazzo dei Congressi di Stresa. E ricorderei poi che proprio in questi giorni finisce, si conclude intorno al 9 maggio l'Alba International Film Festival, un festival che ha saputo crescere in questi anni con una selezione tra i migliori lungometraggi presentati ai festival europei e internazionali. In questi giorni è presente ad Alba Roger Corman. E poi a fine mese l'Alba Music Festival, ancora in uno dei principali centri della provincia di Cuneo, una interessantissima selezione internazionale di orchestre e solisti del repertorio sinfonico. Infatti io vedo nel vostro programma molta musica, ma anche teatro, circo e strada, La Passione di Gesù, il Circuito Teatrale del Piemonte, poi Burattina Arte, il Festival delle Colline Torinesi, no? Quindi circo in pillole. Giugno, certo. Questo insomma è un modo per riscoprire il Piemonte, ma come si fa a conoscere gli appuntamenti? Avete un sito? Il sito è quello del nostro progetto Piemonte dal vivo sulla home page della regione, regione.piemonte.it/Piemonte dal vivo. Troverete diciamo il catalogo dei 100 festival che fanno parte di questo progetto interregionale con giorno per giorno i festival che si sviluppano sul territorio. Abbiamo il sito e una newsletter mensile che viene spedita, una mailing a cui si può chiedere di essere iscritti, attualmente di 10-12 mila persone. Addirittura, allora ricordiamo Piemonte, Festival Piemonte dal vivo, si scaldano i motori come ci ha detto l'organizzatore Marco Chirotti. Previsione di un giugno ancora più caldo, ma si inizia già da questo weekend con tanti appuntamenti per la musica e anche alcuni riguardano il teatro, il circo e gli artisti di strada. Grazie. Prego, buongiorno. Buongiorno. Cartellone. E adesso andiamo a Milano, sì, perché Milano diventa la capitale dell'antiquariato d'élite in questo weekend. Nel Palazzo della Permanente, organizzato dalla Compagnia delle Mostre, collezione d'arte antica, moderna e antiquariato. Insomma, una kermesse rivolta a quel mondo di appassionati che cerca nell'arte culture a piacere, ma anche un'intelligente forma di investimento. 49 espositori presenti, con oltre 3.000 opere, mobili, dipinti, sculture, argenti, ceramiche. Tra i pezzi forti, un guercino ad un'asta recente, partito da una base d'asta di 400-600 mila euro, è stato battuto a 1.200.000, un tintoretto fra Galvario, Marieschi, due chimere di Basaldella, Fattori, De Chirico, Sidoni, Boldini, Manzù, Giopponti e molti, molti altri ancora. Buongiorno a Michele Subert, uno degli antiquari, membro del comitato della mostra. Buongiorno. Abbiamo sentito, c'è di tutto e di più. Esattamente, veramente rappresentato il meglio disponibile oggi sul mercato, direi europeo. La nostra intenzione era proprio quella di stimolare il collezionismo, soprattutto in un momento di congiuntura economica, come noto, non brillantissima, e direi che il successo della mostra è a dimostrare che questo stimolo è arrivato ai collezionisti e noi siamo molto contenti. È veramente, come diceva lei prima, rappresentato un po' di tutto, direi che c'è solo l'imbarazzo della scelta e citare qualche opera è molto riduttivo, ma se vuole possiamo anche parlarne. La nostra intenzione era anche quella di, nonostante consideri questo stimolo, questo cercare di stimolare il collezionismo, l'innovazione, ma mantenerci nel solco della tradizione, la permanente, la sede più adatta, no? Per noi milanesi è il simbolo un po' delle antiche mostre di antiquariato. Quindi, insomma, crisi o non crisi, il collezionismo è sempre in auge? Senza dubbio, direi che non conosce, il nostro problema probabilmente è più procacciare gli oggetti per il collezionista che non poi venderlo. E il nostro problema è proprio rintracciare le opere che possono essere più ghiotte, no? per il collezionismo. In questo momento forse direi siamo concentrati più sulla ricerca che non poi sulla vendita. Prima di lasciarla io le voglio chiedere un consiglio per i nostri radioascoltatori: come si fa a capire, a fidarsi che un pezzo sia vero, che sia autentico, attenzione alle truffe, insomma che cosa bisogna fare? Dunque, intanto i nostri acquirenti sono protetti dalla legge, cioè la legge prevede che tutte le opere che vengono messe in vendita debbano essere accompagnate da un certificato in cui si specifica la provenienza, lo stato di conservazione, si descrive l'opera naturalmente e si mettono tutti quei dati che servono a identificare in maniera perfetta. E deve essere sempre rilasciato al momento della vendita. Questo è il documento fondamentale, con fotografia naturalmente, che tutela il, chiamiamolo, consumatore proprio. L'unico modo di tutelarsi è rivolgersi a un mercante professionista e farsi rilasciare sempre questo documento. Allora ringraziamo, abbiamo sentito Michele Subert. Attenzione, bisogna farsi rilasciare il documento per essere sicuri di non incappare in una truffa. E adesso andiamo a Padova. C'è un tantam per arrivare in questa città e godersi fino al 6 giugno, parte da questo weekend, TAM Teatro Musica, un progetto che vuole proprio fare un po' il punto su questa città, ma anche una serie di eventi. Insomma, Michele Sambin, che cosa succede a Padova fino al 6 giugno? Allora, succede che una compagnia storica della ricerca, che ha sempre lavorato sull'immagine e il suono, celebra i suoi 30 anni di vita e si espone alla città attraverso una mostra, attraverso un archivio e attraverso un libro. È un modo per uscire dagli ambiti della ricerca e proporsi ad un pubblico più vasto. Ecco, la compagnia si chiama TAM, no? TAM Teatro Musica. TAM Teatro Musica, del sì. Centro Culturale Altinate San Gaetano, che è un quartiere di Padova, scusi l'ignoranza. Specifico. Allora, il TAM Teatro Musica ha un teatro a Padova, ma in questa occasione si espone al Centro Culturale Altinate San Gaetano. Che cosa succede ogni weekend fino al 6 giugno? Fate delle mostre, fate delle officine teatrali? Allora, c'è io voglio venire a fare il workshop teatrale, posso? Volentieri. Durante tutto il periodo la mostra è aperta e nella mostra sono visibili disegni, video, oggetti che appartengono ai vari spettacoli, più di 80 realizzati in questi 30 anni. Durante tutto il mese ci sono una serie di appuntamenti, un workshop che è dedicato alla pittura di luce, questo sistema che in qualche modo messo in atto per dipingere la scena in tempo reale con l'ausilio delle nuove tecnologie, ma nei tre venerdì 14, 21 e 28 ci sono delle performance all'interno della mostra che mettono in moto, ridanno l'immagine dei vari spettacoli che sono rappresentati in mostra, e quindi giovani e meno giovani che hanno frequentato in tutti questi anni il TAM mettono in scena questi piccole clip teatrali, perché sono brevi pezzi di 5 minuti e c'è una sorta di antologia che attraversa 30 anni di attività. Michele Sambilla, ringraziamo. TAM, Teatro Musica, fino al 6 giugno. Abbiamo sentito a Padova, al Centro Culturale Altinate San Gaetano, tante tante iniziative della compagnia TAM Teatro Musica. Grazie mille. E adesso parliamo dei conflitti dimenticati dell'Africa. Sì, le immagini del fotogiornalista Ugo Lucio Borga, protagoniste alle scuderie del Forte di Barde in provincia di Biella fino al 13 giugno. L'Esier de la Guerre, una mostra inaugurata in questo weekend che vuole riportarci a vivere i conflitti africani dimenticati e tuttora in corso, quelli nella Repubblica Democratica del Congo e in Somalia, che il fotografo ha documentato e pubblicato su numerose testate nazionali ed estere. Ricordiamo poi che del viaggio in Somalia Radio 24 ha trasmesso il reportage 3 minuti a Mogadiscio, che racconta il luogo più pericoloso al mondo per un reporter. Allora, per chi volesse andare a vedere quello che noi generalmente dimentichiamo, cioè i conflitti dell'Africa, può andare alle scuderie del Forte di Bard in provincia di Biella per la mostra di Ugo Lucio Borga, L'Esier de la Guerre, fino al 13 giugno. Noi invece ci spostiamo, ma ci spostiamo veramente. Radio 24 si sposterà la redazione, sposterà i conduttori dal 13 al 17 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, perché ci saranno trasmissioni per 5 giorni con programmi in diretta, produzioni speciali, eventi per il pubblico e interviste agli ospiti del Salone. Le trasmissioni, per chi vuole conoscere anche di persona i conduttori, che avverranno nel Salone del Libro di Torino, saranno quella di Melog, di Gianluca Nicoletti, Giuseppe Cruciani con La Zanzara, Oscar Giannino con 9 in punto, Sebastiano Barisoni con Focus Economia, Gigi Garanzini con A Tempo di Sport e Matteo Caccia con Vendo Tutto. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it e vi ricordo anche che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it. Un buon weekend a tutti.